Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis, buono ma anche sostenibile, sano, sicuro, riconoscibile nella sua provenienza e conoscibile quanto alle lavorazioni che ha subito prima di finire sulla nostra tavola. E infine a chilometro zero. Se c'è un identikit ideale del cibo che vorremmo mangiare potrebbe essere questo. E come vedremo nel corso di questo speciale Smart City dedicato all'alimentazione, tra packaging e sistemi di etichettatura intelligenti, tecniche come la genomica e la proteomica che permettono di ricostruire la storia di un alimento e pratiche come l'agricoltura urbana, oggi siamo in possesso di tutto l'armamentario per raggiungere un obiettivo così ambizioso. Ma oggi una delle più grandi minacce alla sostenibilità di tutta la filiera alimentare è rappresentato dall'espansione delle città e il conseguente progressivo assottigliamento delle superfici agricole di maggior pregio. Partiamo da qui dunque, dalla minaccia rappresentata dal consumo di suolo, di cui ho parlato con il professor Paolo Pilleri del Politecnico di Milano, esperto della materia, che ci ha ricordato anzitutto quanto sia profondo il rapporto tra cibo e città. Sentiamo. Beh, le città, dobbiamo ricordarlo, nascono grazie a delle persone che andavano in giro, vagabondavano per il territorio cercando cacciagione e frutti, fino a quando un giorno hanno capito che potevano coltivare e allevare e si sono fermati. Nel momento in cui si sono fermati hanno dato vita alla città. E non è che si sono fermati in dei posti a caso, lei dice, no? Mai, non si sono mai fermati nel mezzo del deserto, mai. Si sono fermati sempre laddove il suolo era migliore, era più fertile, l'acqua era presente, il clima era vantaggioso. E quindi, insomma, le città sono nate proprio nei luoghi più fertili di tutto il pianeta e se li stanno mangiando praticamente. Se stanno mangiando, sì, se da un lato le città più furbe, più smart di una volta erano quelle che nascevano esattamente nei terreni più fertili, purtroppo le città meno smart di oggi sono quelle che stanno consumando in assoluto più suolo. E in Italia la cosa è particolarmente preoccupante, anche in Europa è preoccupante, ma insomma se dobbiamo badare alle nostre cose ci accorgiamo subito che più o meno ogni secondo tra gli 8 e i 10 metri quadri di suolo agricolo viene cementificato. E tra l'altro non solo si erode appunto terreno fertile, ma quando parliamo di chilometro zero e quant'altro stiamo rendendo, diciamo, non coltivabili proprio i terreni più vicini alla città, anche dal punto di vista dell'approvvigionamento, no? Assolutamente, è una contraddizione che continua a stare in piedi purtroppo, nel senso che si spinge sempre un po' più in là il luogo da cui mi approvvigionerò del cibo. Oggi quello spingere un po' più là è diventato lunghissimo, cioè noi oggi nel nostro frigorifero abbiamo più cibi che arrivano da migliaia e migliaia di chilometri che cibo che arrivano attorno alle nostre città, quindi quel rapporto tra città e campagna purtroppo prevalentemente è saltato, va bene. Dopodiché potremmo aggiungere, come dire, negli ultimi 20-25 anni alcune accelerazioni molto forti date dalla speculazione ancora più forte, sì, sui terreni, soprattutto agricoli, intorno alle città, che anno dopo anno, giorno dopo giorno, sono diventati sempre meno di proprietà degli agricoltori e sempre più di proprietà degli immobiliaristi o dei costruttori o di chi comunque ha un'attesa di rendita molto forte, rendita del mattone per intenderci. Vengono acquistati nella speranza o in attesa che diventino edificabili, sì, no? La speranza, come potremmo dire, che la città si avvicini a loro fondamentalmente. Sì, ecco, che venga spostato questo limite. Esatto, e quindi molto spesso non vengono neanche più coltivati in modo da rendere poi più semplice il cambio di destinazione. Quindi proprio quei terreni lì, quelli intorno alla città, più vicini e più fertili, per il discorso che abbiamo fatto, per di più restano inutilizzati molto spesso, no? Quindi da un punto di vista pratico, invece di immaginare chissà che cosa, si potrebbe cominciare, lei dice, cercando di sfruttarli meglio questi terreni, magari di riportarli al loro originale servizio, quello di produrre cibo e risorse per l'ambiente, per l'uomo, assolutamente. Senta, a livello di governance ci vuole dire due o tre regole ferre che bisognerebbe magari imporre? Io una che dico sempre si fonda sulla coerenza, benissimo. Se vogliamo immaginare di salvare questi terreni bisogna davvero dire con grandissimo coraggio stop al consumo di suolo e nello stesso tempo però bisogna ridirezionare l'industria del mattone verso il recupero delle nostre città, verso la rigenerazione urbana. Quest'ultima è molto richiamata oggi nelle politiche, però senza